Alla fin fine forse si è comportato peggio di un giocatore di football o della rockstar più sregolata, ma è sempre stato una persona di cuore, molto generosa e che non si tira mai indietro. La stampa lo ha spesso bistrattato e ha cercato di dimostrare quanto sia refrattario alle regole. È stato accusato di assumere comportamenti poco ortodossi, ma spesso sono state pure provocazioni per vendere di più. Il principe Harry passa buona parte della sua vita sotto lo sguardo dei media. A soli 12 anni diventa il catalizzatore di tutto il dolore suscitato dalla morte della madre Diana, avvenuta in un incidente d'auto a Parigi. A pochi giorni dalla sua scomparsa, Harry si inchina tra i fiori che molti hanno lasciato davanti al cancello della residenza della regina, un segno di solidarietà, immortalato dalle TV di tutto il mondo. Harry prese per mano il padre. Era un gesto molto commovente. Il principe Carlo lo teneva stretto. Era un momento molto intenso per il figlio, ancora sotto shock. Aveva bisogno di quel conforto che solo la mano di un padre può dare. 7 giorni dopo, 2,5 miliardi di persone lo vedono lì, schierato e fiero, accanto ai propri familiari. Per la madre inizia quell'ultimo viaggio che non ha ritorno, ma Harry vuole accompagnarla fino in fondo. 10 anni dopo, Harry parla pubblicamente della madre. Da Wellington Barracks, a Londra, le sue parole si diffondono ovunque. Il principe ha 22 anni e le tributa un omaggio speciale nel 10° anniversario della sua morte. William and I can separate life into two parts. There were those years when we were blessed with the physical presence beside us of both our mother and father. And then there are the 10 years since our mother's death. She will always be remembered for her amazing public work. The behind the media glare. To us, just two loving children, she was quite simply the best mother in the world. Penso che il vero Harry sia questo, e non quello che esce dai locali notturni ubriaco. Più diventa grande, e più è facile trovarlo a prendersi cura di orfani africani, piuttosto che in diatribe con la stampa. Proprio come la madre, il giovane principe ribelle fa la differenza ovunque vada. Scoprì di essere molto empatico e di avere facilità di contatto con i bambini e con i giovani e soprattutto con coloro che vivono in circostanze difficili. Questa empatia gli torna utile quando diventa ufficiale dell'esercito. Dopo 3 anni di addestramento nell'esclusiva accademia militare di Sandhurst, il giovane principe vuole partire per l'Iraq. Per l'esercito, però, i ribelli iracheni sono un rischio troppo elevato, sia per Harry che per coloro che combattono con lui. Dopo lunghi dibattiti, viene costretto a restare a casa, mentre il suo reggimento attraversa l'oceano. Nel dicembre 2007, riaddestrato come Tactical Air Controller, Harry viene mandato in Afghanistan in missione segreta. Il Ministero della Difesa negozia un accordo con la stampa perché la missione non venga pubblicizzata. Il principe è un bersaglio troppo invitante per gli estremisti. La sua identità è segreta anche per i piloti, che ricevono le sue istruzioni via radio e lo conoscono solo con il nome in codice Windows 67. Poi, all'inizio del 2008, la questione trapela via internet. E quando i giornalisti diffondono ai 420 la notizia della presenza in Afghanistan di un membro della Casa Reale, l'esercito deve fare il diavolo a quattro per portare Harry fuori dalla zona di guerra. Il principe è contrariato, ma promette di fare di tutto per tornare al fronte. La famiglia reale, invece, tira un sospiro di sollievo, mentre tutta l'Inghilterra freme d'orgoglio per l'impresa. Con un pizzico di follia e molta disinvoltura, l'eccentrico principe inglese trasforma l'idea di cosa significhi essere un membro della casa reale. Harry sta gettando le basi per un futuro maestoso, certo, ma molto diverso. 15 settembre 1984, ore 16:20. La notizia è ufficiale e la più importante di tutta la giornata. Al St. Mary Hospital di Londra, la principessa Diana del Galles dà alla luce il suo secondo figlio, il principe Harry Charles Albert David. Dopo il primo, Carlo e Diana offrono al trono inglese un secondo erede maschio. La monarchia era al sicuro. Non solo c'era un erede, ma per ogni evenienza perfino una riserva. La regina Elisabetta era in un momento particolarmente felice del suo regno. Era molto popolare, non c'erano scandali da molto tempo. E così, quando Harry nacque, c'era ovunque aria di festa. È di certo un inizio perfetto per un giovane principe. Ma fortunatamente, lontano dalla residenza reale, la vita si svolge con meno formalità. Diana desidera che i suoi figli vivano un'infanzia meno austera di quella del marito e decide che la loro educazione sarà molto diversa dal solito. Grazie alle idee moderne della madre, Harry viene educato in modo inconsueto. Poi, a 3 anni, nel settembre del 1987, viene iscritto all'asilo già frequentato dal fratello William. La stampa britannica è subito pronta per immortalare i primi giorni di scuola del principe ereditario. La reazione di Harry davanti ai fotografi è quella tipica del giovane sfacciato rampollo che presto diventerà. Si comportava da birbante, ed era normale, direi, anche perché da buon secondogenito non era suo compito essere irreprensibile e composto, qualità invece che toccavano al fratello. Ma la follia birichina del principe non è proprio adatta per la scuola. E quindi a casa, a Kensington Palace, che Harry si scatena, coinvolgendo il personale domestico, parte fondamentale del suo mondo di bambino. Qualche volta William o Harry bussavano da noi e chiedevano se non fosse possibile una battaglia di cuscini. E così non restava che infilarsi dei vestiti vecchi e fare un po' gli sciocchi. Ricordo che un giorno William si avvicinò furtivo alla porta e annunciò che ci sarebbe stata grande battaglia e cominciarono a fare i matti. E anche se sarebbe stato necessario riportarli al contegno, beh, era proprio impossibile. William e Harry sono spesso complici e gli schiamazzi sono ormai una norma a Kensington Palace. Ma oltre i confini della loro accogliente dimora, Harry sa perfettamente di venire dopo il fratello e non solo dal punto di vista dell'età. Tuttavia, l'idilliaca infanzia di Harry sta per terminare. Il matrimonio di Carlo e Diana continua a sembrare una favola meravigliosa, ma gli osservatori più acuti cominciano a notare che dietro l'apparenza la situazione non è così rosea. In verità, subito dopo la nascita di Harry, il matrimonio di Carlo e Diana comincia a deteriorarsi. Il dissenso tra loro avrà presto forti conseguenze su tutta la famiglia, la preferita degli inglesi e del mondo intero. Alla fine degli anni Ottanta, sia Carlo che Diana hanno altre relazioni. Carlo ritorna dalla sua vecchia fiamma, Camilla Parker Bowles, e Diana comincia una storia con l'ufficiale di cavalleria, James Hewitt. Per molto tempo, questi eventi non hanno ricadute sul piccolo Harry. Quando Hewitt propone a Harry di visitare insieme la caserma militare di Windsor, per il principe è la realizzazione di un sogno. Quel giorno lascia pochi dubbi su quale sia la sua naturale vocazione. Negli anni a seguire, la relazione tra Diana e James Hewitt avrebbe potuto avere conseguenze difficili per Harry. Ma in quel momento è solo un'altra occasione di divertimento, continuamente trasposto in forme nuove e diverse. Nel settembre del 1992, il principe Harry ha 8 anni e raggiunge il fratello in un collegio del Berkshire. Dopo solo 3 mesi, però, Carlo e Diana si mettono in viaggio per una visita imprevista e inattesa. Si sono ufficialmente separati e vogliono essere loro a comunicare la notizia ai figli prima che diventi patrimonio pubblico e della stampa. Non si può dire che sia una separazione normale. Le conversazioni private di Carlo e Diana con i rispettivi partner vengono registrate e diventano di dominio pubblico sui giornali scandalistici. Diana è perfino d'accordo con un giornalista per raccontare in segreto e poi pubblicare tutta la storia del suo matrimonio, rottura compresa. Ciò che fino ad allora è parte di un mondo privato viene messo a nudo e rivelato a tutti. La scuola di William ed Harry si muove subito per proteggere i pupilli reali dalla guerra pubblica che i genitori stentano a intraprendere. Nel luglio del 1993 il principe Harry, di 8 anni, parte per un viaggio con la madre. È una pausa di conforto e di distacco dal clima instabile dell'ambiente familiare. Diana è colonnello in capo del reggimento di cavalleria dei Light Dragoons. Per suo figlio è un'occasione per fare un giro tra i soldati e magari prendere parte a qualche azione. Il giorno trascorso insieme alla madre offre l'occasione per alcuni bellissimi scatti che fanno la gioia sia della stampa che del pubblico. Per William ed Harry, però, la separazione di Carlo e Diana significa vivere scissi in due. Dal 1993, perfino le vacanze di scuola vengono divise tra i due genitori in conflitto. Fin dall'inizio delle dispute, Diana diventa molto famosa in tutto il mondo e non fa segreto di quanto i ragazzi si divertano quando passano il tempo insieme a lei, a Londra, al punto che un giorno trascorso in un parco di divertimenti diventa un affare pubblico. La disputa tra i genitori procede in mezzo a un grande chiasso e a continui colpi di scena. Il principe e la principessa del Galles lavano i loro panni sporchi in pubblico. Ormai hanno aperto le porte della loro vita e di quella dei figli ai media. È la fine di una separazione tra reali decisamente inconsueta e preannuncia una prospettiva terribile per la principessa del Galles. Ma Diana non ha nulla da temere. Anche se perderà il suo titolo reale, non perderà i suoi figli. 6 settembre 1997. I principi William e Harry si preparano ad accompagnare la madre nel suo ultimo viaggio. Una settimana prima, Diana muore in un incidente d'auto a Parigi. I suoi figli ora devono compiere i passi più penosi di tutta la loro vita. La perdita della madre segna un punto di svolta nella vita di William e Harry. nulla sarà più lo stesso. Trascorsi alcuni giorni, il principe Harry ritorna al college nel Berkshire. Un anno dopo, nel settembre del 1998, Harry ha 14 anni e raggiunge il fratello in una delle più esclusive scuole private inglesi. Deve ripetere l'esame finale di Ludgrove per poter sostenere quello d'entrata a Eton. È molto impegnativo e fa di tutto per farcela. Harry non è il classico tipo intellettuale, quindi la prova per lui era abbastanza impegnativa. Era molto bravo in arte e negli sport anche, ma tutto ciò che doveva essere studiato non era il suo forte. Le doti comunque non gli mancavano, era intelligente e scaltro. Non gli sarebbe stato impossibile riuscire. Infatti, le manchevolezze sul piano accademico non impediscono a Harry di far emergere i propri talenti. Da un po' di tempo, i due fratelli non vengono più tormentati dalla stampa. Così il principe Harry decide di improvvisarsi fotografo. William stava partecipando a una corsa e all'improvviso, da dietro cespugli, saltava fuori Harry con la macchina fotografica e clic, preso. William era furioso, ma Harry adorava fare scherzi. Il principe non bada granché all'etichetta di casa reale e man mano che cresce, quel ragazzino birichino si trasforma in un adolescente ribelle. Gli piaceva permettersi qualche cocktail o anche flirtare con le ragazze. Era un originale e anche piuttosto ardito, ma non per questo era un cattivo ragazzo. Durante le vacanze scolastiche, Harry partecipa a party e feste. Ha solo 17 anni e passa già molte sere al pub con gli amici. Anche nella casa di campagna del padre, la cantina viene trasformata in una taverna che risulta perfetta per le feste e per accogliere le riunioni di Harry con la sua gang. Tuttavia Harry rischia di dover pagare un prezzo per i suoi eccessi adolescenziali. Nel gennaio del 2002 la stampa lo accusa di far uso di droghe e consumare alcol senza avere l'età giusta. Il principe è pur sempre il terzo erede in successione al trono d'Inghilterra e la questione non può passare inosservata. Il principe Carlo viene a conoscenza di questi momenti di sbandamento, ma gli ci vogliono alcuni mesi prima di riuscire a mettere fine alla storia. Spedisce Harry per un giorno in un centro di recupero per le tossicodipendenze, una mossa che rimette in riga sia lui che la stampa. Tornato a scuola, il principe è sottoposto a stretta sorveglianza. Intanto l'ex amante di Diana, James Hewitt, pubblica un libro sulla loro storia d'amore, durata 5 anni. Una misteriosa somiglianza fra Harry e l'ex ufficiale di cavalleria pone un'inevitabile domanda sulla paternità del ragazzo, ipotesi che perseguiterà il principe per molti anni. Ci furono un sacco di voci su questa storia tra Harry e James Hewitt quale suo possibile padre, ma Hewitt non era ancora entrato in scena quando Harry fu concepito e comunque, se si guarda il volto del principe, è facile riconoscere i tratti caratteristici degli Spencer. Ha lo stesso identico volto dello zio. Hewitt non c'entra. Arriva il momento di prendersi una pausa. Dopo alcuni mesi in Australia, Harry si sposta in Sudafrica, nell'Esoto. Serve come volontario in alcune organizzazioni umanitarie. Per coloro che conoscono il principe fin da bambino, questo cambiamento improvviso non è una sorpresa. Alcuni anni prima, la madre Diana ha instillato in entrambi i figli un senso di compassione per il mondo che li circonda. Proprio come Diana, prima di lui, Harry ha un grande impatto sullo scenario internazionale. Ma le buone azioni del principe impallidiranno a confronto con alcune imminenti rivelazioni. Il terzo successore al trono inglese, ancora una volta, finirà presto sui giornali. Nella primavera del 2004, il principe Harry rientra in città e al suo braccio c'è una nuova ragazza. Nativa dello Zimbabwe, Chelsea Devi, che diventa sempre più un punto di riferimento nella vita di Harry. Per gli osservatori della casa reale, la ragazza è qualcosa di più di un'effimera passione. Indifferente alle pressioni dell'ambiente, Harry continua a frequentare i night della capitale e ben presto si guadagna la reputazione di temperamento focoso e irascibile. Nell'ottobre del 2004, il principe, ventenne, aggredisce un fotografo all'uscita del Pangea, club di Londra. L'impetuoso Harry finisce ancora una volta nelle grinfie di insaziabili paparazzi. In quanto fotografo, era ovvio voler scattare foto di Harry coinvolto in una rissa. Sfortunatamente è questo che un paparazzo si augura. Il comportamento poco regale del principe è di nuovo patrimonio di tutti. Il fratello William non dovrà mai sopportare un simil triste destino. I misfatti del futuro re d'Inghilterra vengono riportati dalla stampa sottotono. Agli occhi di tutti la faccenda appariva così. Da un lato c'era il principe William, praticamente immacolato, e dall'altro c'era Harry, un po' ribelle, continuamente nei pasticci. In effetti, la verità è che anche William era un grande bevitore e flirtava continuamente con ragazze diverse nei night, e cose simili. ma il pugno dato al fotografo all'esterno del pub di Londra non è l'unico evento quel mese che fa guadagnare ad Harry un ennesimo titolo sui giornali. L'ex insegnante di arte di Eton accusa il principe di aver superato l'esame con l'inganno e la notizia aggrava la cattiva reputazione del ragazzo. Ma c'è dell'altro. Harry commette un grave errore. Partecipando a una festa in costume, indossa un uniforme nazista e la stampa ci va a nozze. Harry ha superato il limite accettabile. È un errore di valutazione che il mondo non gli permetterà di dimenticare. Malgrado l'immagine pubblica negativa, nel maggio del 1995, Harry viene ammesso all'elitaria Accademia Militare di Sandhurst. L'intenso programma di preparazione non lascia spazio per le buffonate. Il principe Harry supera l'esame di Sandhurst e nell'aprile del 2006 diventa ufficiale. Per il giovane e ribelle principe, l'esercito di Sua Maestà è l'occasione per una svolta. Quel giorno, finalmente, la madre sarebbe stata fiera di lui. Ma al posto di Diana, accanto a Carlo c'è la nuova moglie Camilla Parker Bowles. Carlo sposa la sua amante di sempre, 7 anni dopo la morte di Diana. Per Harry, questo rappresenta il duro ricordo di ciò che ha perduto. Dopo l'addestramento a Sandhurst, Harry raggiunge il suo nuovo reggimento, mentre si prepara a una missione in Iraq. È proprio ciò che il principe ha sempre sognato e dà per scontato che raggiungerà i suoi uomini nella zona di guerra. Ma il sogno di Harry di servire il proprio paese ben presto si infrange. La sua presenza in Iraq diventa occasione di un dibattito nazionale. Il rischio di lasciar partire una così alta carica dello Stato rende sempre meno sostenibile la missione. Tutti desiderano che Harry lasci l'esercito, tranne sua nonna, la regina, che, improbabile alleata, è l'unica a sostenere pienamente la partecipazione del principe alla guerra. Nel dicembre del 2007, Elisabetta confermerà ad Harry l'invio in Afghanistan con una missione top secret. Il Ministero della Difesa si dà molto da fare per ottenere dai media la promessa di non nominare Harry nei notiziari, così da ridurre la possibilità che i suoi soldati vengano presi di mira dai talebani. Il 7 gennaio del 2008, una rivista australiana, New Idea, diffonde la notizia della missione di Harry. Ma sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, la stampa mantiene il riserbo. Poi un sito americano, il Drudge Report, infrange il silenzio. In poche ore la notizia rimbalza ovunque. E ben presto i siti degli estremisti islamici diffondono l'avvertimento ai propri combattenti: tenere d'occhio i soldati inglesi. La paura per l'incolumità del principe aumenta ed Harry viene rispedito in Inghilterra. Il primo ministro Gordon Brown si unisce comunque al coro di elogi e l'intera Gran Bretagna è orgogliosa del suo rampollo. Al ritorno, Harry chiede di non essere trattato da eroe, perché i veri eroi sono quei soldati che ritornano a casa feriti. Nello stesso tempo, sa anche che ora la madre sarebbe orgogliosa di lui. Il principe Harry si è confrontato da subito con ciò che significa essere un reale, ma ormai è solo questione di tempo, e presto l'erede al trono lascerà il centro del palcoscenico. Ma il giovane ribelle non si è ancora dissolto nell'ombra del fratello. Il ritmo di vita intenso di Harry non dà segni di rallentamento. Essere il principe Harry è uno dei lavori più grandiosi del mondo, perché non ha le responsabilità di William e allo stesso tempo si può concedere molti divertimenti. Spero che continui a portare avanti il cammino che sta percorrendo e che il suo divertimento diventi la famiglia reale stessa, perché in tempi come quelli in cui viviamo ne abbiamo bisogno.